tonight. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Bazinga. c'è una cosa qua rotonda. Rotonda con una specie di spugna sopra. Minge, che cazzo è sto coso? Sono emozionato. Che cos'è? Sono emozionato come se fosse la prima volta che faccio il radio. Ho dimenticato di fare me. Come faccio ogni volta. Ben ritrovati, cari radioascoltatori, su Bazinga Z, la seconda stagione di Bazinga, qui in diretta dagli studi di Radio Sisma. Dovevi per forza spiegarlo, da secoli vogliamo chiamarlo così. L'abbiamo deciso assieme una sera di questa estate meravigliosa appena trascorsa. Perché Bazinga Z la seconda stagione? Perché? Capito? Perché Bazinga Z? Bazinga Z? Bazinga Z? Ci sono già i primi errori. Volevo salutare anche Giorgio Arraputo che me l'ha chiesto. Ha detto devi salutarmi il primo, altrimenti io vado ad ascoltare i Cesaroni. Va bene. I Cesaroni. Bazinga Z perché, ragazzi, voi sapete benissimo di cosa si tratta. Dragon Ball Z. Sapete che Dragon Ball Z si riferisce appunto a Dragon Ball 2. Perché c'era il primo Dragon Ball che era Dragon Ball X. Dragon Ball X, ovvero senza numero. Come per esempio la PlayStation 1, PS1, prima era chiamata PlayStation X. E basta, no? E quindi perché Bazinga Z? Dragon Ball Z è il secondo Dragon Ball. E perché si chiamava Z Dragon Ball Z? Z perché Toriyama, Akira Toriyama. È morto Toriyama o sbaglio? Non ricordo male. No, vabbè, sono... Comunque sia, se hanno detto che è morto, non lo so se è morto. Insomma, Toriyama aveva disegnato la scritta Dragon Ball Z, e cioè, scrivendo Dragon Ball 2, chiamandolo proprio Dragon Ball 2. Siccome aveva una scrittura di merda, e questo 2 stilizzato è sembrato una Z, e rimase quindi Dragon Ball Z, perché piacque talmente tanto alle persone. Alla Bird, Toy Bird, non mi ricordo Bird, come si chiama. Entertainment, non lo so. Insomma, sì. Quindi, che cosa accade? Al network, accade? Insomma. Ah, c'è già un'altra ragazza e ci dice: listitevi, che però ci sono i Cesaroni. No, ti puoi rassentere. Io, Maria Grazia, io non ti saluto perché tu vuoi guardare i Cesaroni. Va bene. Schifo, vergogna. Comunque sia, dicevamo: Dragon Ball Z, quindi Bazinga 2. No? Ci sono, è schifo, quindi Bazinga Z. Bazinga Z, anche perché quando abbiamo deciso di chiamare il programma, non mi senti? No, non sento musica. Non senti musica? Improvvisamente si stacca così. Si stacca e noi la rimettiamo subito, guarda che bello. Quando praticamente... Che cosa succede? Quando mi ha fatto perdere il filo. Ah, quando abbiamo deciso di cambiare il nome al programma da Vicchiopedia a Bazinga, quando lo dicevamo ad Onorio, il nostro presidente, che il programma si chiamasse Bazinga, lo dicevamo, diceva metti Bazinga, Bazinga, Bazinga, lui si ricordava Mazinga. Mazinga Z, un cartone animato giapponese degli anni 80. Molti probabilmente non lo ricordano. Io personalmente non lo ricordo. Io nemmeno, io invece lo ricordo, ma così di sfuggita. Forse avevo un anno quando accadde, diciamo. E quindi Mazinga Z, Bazinga 2, Bazinga Z. Bazinga Z mi piace. Ovviamente continueremo a chiamarlo Bazinga, ma la stagione si chiama Bazinga Z. Perché chiamo Squid Dai, praticamente, in poche parole. Ah, bellissimo, ragazzi. Ah, ragazzi, siamo tornati dopo un'estate abbastanza, diciamo, movimentata. Movimentatissima, sì. Lo stesso Bart dice: buonasera e bentornati ai mitici Vicchio 88 e Nartista su Grazie, Bazinga. Grazie. Grazie Bartolo, ci sei mancato tantissimo. Grande nostro ascoltatore, forse il numero uno. Il numero uno, sì. Poi quando vieni fai un programma solo tu, magari con tutte le cose che hai fatto, diciamo. No, ma comunque ospite potresti venire, ci farebbe tanto piacere. Ti facciamo condurre una puntata di Bazinga solo a te, probabilmente. Che poi tra l'altro oggi è anche un giorno particolare, oltre ad essere la prima puntata della seconda stagione di Bazinga, è un giorno particolare per me, perché come scrivo stamani su Twitter, 24 anni fa ero in un luogo comodo e umido, A Castelvetrano, poi mi sono ritrovato fuori, In una culletta, e poi ho scritto una serie di altre cose, che 6 anni fa ero a un rave party, tu te lo ricordi, 4 anni fa ero a Napoli, l'anno scorso ero a Palermo, e quest'anno sono a fare un programma radiofonico. Insomma, oggi è il mio compleanno, ed è la prima volta che mi trovo in... Tanti auguri a te. Ma potevamo mettere qualche canzone? Tanti auguri a te. Grazie. Tanti auguri, ragazzi. Vicchio, tanti auguri a te. È la fatto prima io, volta... manco l'applauso mi hai fatto. Ah, scusami, è perché stronzo. Sono una vergogna. Vabbè, non ricordo neanche quello è l'applauso. L'applauso è questo. Che tra l'altro neanche si sente. Questo è l'applauso. Grazie. Grazie. Ti fai gli applausi sì, da solo. Sì, no, no, non mi faccio gli applausi da solo. Semplicemente sì, riconosco le mie grandissime doti canore. E tutti i radioascoltatori per adesso staranno bestemmiando in arabo per dire: ma che dice? Dice qua, Bartolo dice mi ha scritto un po'. Maria Grazia te ne puoi rabbi, dice Saroni, includendo nella discussione anche Narcis. Hai capito, Maria Grazia? Quindi stai attento a ciò che dici, perché i nostri radioascoltatori ti noi criticheranno. No, non ti vogliamo qua, Maria Grazia. Se tu sei una persona che guarda i Cesaroni, te ne puoi ire proprio perché che schifo, vergogna. Ah, insomma, praticamente cosa accade? Abbiamo detto che è il mio compleanno, abbiamo detto che l'estate è appena trascorsa, una bellissima estate, anche un'estate all'insegna del Radio Sisma. Non so quanti di voi hanno ascoltato i primi di agosto, siamo stati in giro con la radio, la prima, diciamo, esterna serie che abbiamo fatto, perché ci siamo trasferiti e Gabriele non c'era perché è schifoso, abbiamo deciso di lasciarlo a casa. Aveva altri impegni, diciamo, sai, con la ragazza, probabilmente, non voglio... ma già mi hanno detto sei un vecchio di merda, quindi cominciamo benissimo, grazie per gli auguri. Dicevo, siamo stati con la radio a Caltabellotta a un importantissimo festival di musica indie, indipendente, che si chiama Dedalo Festival. È stata un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo conosciuto meglio, io personalmente ho conosciuto meglio lo speaker di un programma molto simile al nostro che si chiama Coffee Break, Luca Licausi, e probabilmente ci sta pure ascoltando. È la prima volta che eravamo assieme per più di 5 minuti. Ciao Luca, è rimasto Lughelo per tutto, perché ovviamente non so se avete ascoltato Coffee Break su Radio Sisma. Ascoltatelo, è un bel programma. È un bel programma, mercoledì lo fa lui, è di pomeriggio, non ricordo ora bene l'orario, alle 4, sì, alle 4, 4 e mezza, insomma. Lui parla romano, però è sciacchitano fino al midollo osseo. Saccenze, tu, si tu, dice saccenze. Tu lo senti parlare saccenze, e poi quando vai in radio, Limortecci, ma che stai a fare? Piglialo, prendelo, arzelo il microfono, frullelo e lughelo, abbasselo il microfono. Per questo lughelo, quindi un'esperienza. Sto a mettere la canzone, sto a mettere la canza a Radio De Sisma. E praticamente Luca è stata una delle grandi esperienze che mi ha fatto vivere quest'estate. È stata quella di ritrovarlo ubriaco fradicio steso su un bellissimo, tra l'altro suonano, io già so chi è, quindi ora mettiamo ragazzi, una canzone. Ragazzi, chi è che suona agli studi di Radio Sisma, ragazzi? L'ospite sarà una sorpresa, ma non tanto sorpresa, va bene. Io spero che non ci facciamo fregare di nuovo, vi mando questo pezzo che parla proprio di questo. Spur the song. Bentornati in studio dopo questa canzone lunghissima. Proprio non ave... Cos'è? Questo. Che cos'è questo? Questo rumore, che cos'è? È fastidiosissimo, non lo devi aumentare quello lì. Che ecco, cos'è? prova. Qui abbiamo un nuovo microfono che adesso daremo al nostro ospite d'onore. Una persona, diciamo, di sani principi. Una persona che rispettabile. Rispettabile, diciamo. Una persona intelligente e una persona soprattutto con grande gusto sportivo. Una persona che al solo parlare di questa persona mi viene proprio di mettere il dito sul numero 7 e fare così. E quindi magari potete già capire chi è, ma comunque è una persona che non è mai stata qui a Radio Sisma, giusto? Soprattutto non è mai stato in programma, nel programma con noi, esatto. Ecco a voi, ladies and gentlemen, Roberto Zalone. Ciao ragazzi, buonasera a tutti qui amici di Radio Sisma. Fai finire l'applauso prima. Non lo so, non ho le cuffie, quindi mi devo adattare. Mi pare normale. Adesso posso parlare, giusto? Adesso puoi parlare. Sì, parla. Okay, allora, tutte le cazzate, tutto quello che vuoi lo puoi dire adesso. Ma niente, questa sera, anzi, dopo quasi... Nove mesi. Che una mettevo... gravidanza è stata. Nove mesi senza Radio Sisma, senza Bazinga, ecco, Bazinga. Ricordiamo tutti gli amici ed ascoltatori che io sono stato un ex, diciamo, conduttore di Bazinga. Lo sanno bene. Non sei stato conduttore, sei stato co-conduttore, Insomma, quella roba lì, diciamo. Quindi, tutte queste belle cose. Diciamo che... E poi ho mollato e quindi però non parliamo più del passato, parliamo del presente. Quindi questa sera, cari amici, quindi sono qui, quindi se volete farmi delle domande inerenti, non guarda, sono tutti qui a fare domande. Anzi, io volevo aprire una parte, visto che colgo il casone, spero che il nostro Onorio che ci sta penso ascoltando. Oltre ad ascoltarci, Onorio sarà qui tra un po', verrà a trovarci. Perché cosa accade? Accade che Roberto Anzalone, il tizio alla mia sinistra, che voi non potete vedere purtroppo per questi. Ma anni, meglio per voi, guarda. Ma molto meglio, sempre. Tra l'altro sei ancora schietto, dov'ero? Schietto. Sì. Roberto è schietto, quindi potete, per trovare un ragazzo bello, diciamo, è bello. Soprattutto poco polemico. Bello dentro e poco polemico. E anche fuori. Andate a facebook.com/roberto.anzalone1, non ricordo ancora bene. Sì. Roberto.anzalone1. Quindi aggiungetelo agli amici e fate sesso con lui, perché ne ha davvero. No, sto scherzando. Sì, però sì. Però è vero, dai, scherzando. Ho fatto la battuta. Roberto, mi faccio un applauso da solo. Grazie. Questo ci sta. È finito già. È proprio iniziato e proprio finito. Perché per il soggetto, proprio già è finito. Praticamente, che succede? Che succede? Che Roberto, quando. No, ma sempre, non quando. Roberto, in ogni singola occasione, cioè non perde mai occasione. Per qualsiasi evento pubblico o non pubblico, privato, no, di fare una polemica sterile ed inutile, compresa in questa polemica delle teorie della cospirazione particolarmente interessanti. Non ho capito niente. È meglio così, come i nostri ascoltatori capiscono. Tu che cosa succede? Qualsiasi cosa accade nel mondo, facciamo un esempio, gli europei di calcio dell'altra... Mamma mia, moltissime persone, tipo tu avevi 12 amici su Facebook, adesso ne hai uno, che è tuo padre praticamente. Perché cosa dicevi durante gli europei di calcio? Ricordiamoci. Sentiamo, ti favo contro l'Italia, però avevo la giusta causa. Qual è la giusta causa? La giusta causa è che non mi ha messo in campo nemmeno un giocatore dell'Inter. La mia risposta fu: perché l'Inter ha giocatori italiani? Ma guarda, il motivo è perché Onorio mi ha cancellato, che poi lui senza alcun motivo. Sì. Ora io ne parleremo, ho messo sul link che Cassano non è stato più convocato in nazionale perché non è in forma, a posto suo Pazzini. E io mi sono un pochettino alterato di questa proposta che ha fatto la federazione ma anche l'allenatore Pandelli, perché non è giusto che Pazzini prima non me lo convochi e dopo lo convochi. Certo, ce l'ha contro l'Inter, ce l'ha, è normale. E io da interista tifo contro l'Inter. Ma tu devi sapere che per essere convocato in nazionale il primo requisito è non essere dell'Inter. Quindi questo è da sempre questo, no? No, è giusto, la legge è uguale per tutti. Vabbè, poi la, la cosa strana è che tu dicevi quando Pazzini, lo dicevi con la tua voce, è stato quando Pazzini era nell'Inter, dicevi quando Pazzini era nell'Inter non veniva convocato, giusto? Sì. Adesso che nel Milan viene convocato, però Pazzini ha fatto una tripletta e Cassano ha fatto un gol di merda l'ultima partita. Ma non significa niente. Ma quindi significa intanto, niente. Vabbè, anche perché non è un programma sportivo, no, di calcio, no, è un programma sportivo, quindi e per questo lui mi ha... Ti ha cancellato. Ti ha eliminato, ecco. Quindi il fatto non che qualcuno ti abbia cancellato significa perché tu dicevi questo. Io personalmente ti ho levato i privilegi di pubblicare sulla mia home. Ovvero ho messo nascondile gli aggiornamenti di Roberto Azzalone, così non vedo cosa scrivi. Perché ne ha scritte veramente di tutti i colori. Di tutti i colori, nel senso che tipo che, non lo so, Prandelli è un massone ed è guidato dagli alieni, con Mussolini resuscitato, che è alleato coi comunisti. E allo stesso tempo gli alieni disegnano cerchi sul grano, la formazione dell'Italia Inter. È vero, io dicevo altre cose, diciamo, abbastanza pacifici. Ah, pacifiche, sì, pacifici. Sì. Cioè, io da oggi non tifo più Italia. Detto. Non tifo più Italia. Normale, non tifo più Italia perché? Perché non è giusto, la legge è uguale per tutti. Adesso ora è stato per la fiera. Ma abbi un po' di patriottismo, che te ne frega dell'Inter, voglio dire. Viene un interista, un collega mio, mi dice... Collega mio mi dice, guarda, ti ho dato una brutta notizia, Cassano non è più convocato, non è stato più convocato in nazionale. Cioè, poveraccio, lui aveva puntato tutto su di lui, proprio lui è l'allenatore dell'Italia. Ma perché schifo. Io ho detto io? Perché non è in forma. Come? E c'è a posto suo Pazzini. Giusto, da quel momento in poi ancora Pazzini loro. Pazzini ha fatto tre se gol. Se Buffon quindi fosse interista, in porta metterebbero Viviano. Probabilmente. Ma pure Cassano ha fatto un gol. Storari, diciamo. Ma pure Cassano ha fatto un gol. Per evitare di parlare ancora vabbè, di calcio. Basta con questo basta, argomento. Vi leggo questo tweet di sempre il nostro amico Bartolamico. Amico Bartolamico, che bellissima questa cosa. L'avevo pure il nostro amico Bartolo. Puoi dice: dire avevo qualche dubbio che fosse Roberto Anzalone, ma speravo in qualche superstar. Ci accontenteremo comunque. Grazie, grazie. Roberto, sei ben voluto dai nostri ascoltatori, che ti hanno sempre... Ma io vorrei sapere dai nostri ascoltatori, almeno curiosità, se hanno sentito in questi mesi la mia mancanza. Ah, ditelo tutti, per favore, rispondete a questa domanda. Curiosità, avete dove... sentito la mancanza di Roberto Anzalone in questi mesi? Questa è la domanda. Questa è la domanda sondaggio. Di Bazinga di stasera. Ecco. Comunque dobbiamo salutare io Oriana. Oriana e Natale che ci stanno ascoltando. Poi abbiamo nuovi ascoltatori. Abbiamo Vito Giannini. Vito Giannini che mi scrive: ma l'Inter è una squadra ma di calcio? Ma l'Inter è una squadra di calcio? Ciao Vito, guarda. Sì, è la squadra di calcio da 100, sì, 104 sì, anni. Sì, sì, sì, ai posteri l'ardua sentenza, ascolta a me Vito. E poi dobbiamo salutare altri, dobbiamo salutare Filippo Rabbito che ci ascolta. Oh, grande Filippaccios. E poi tra l'altro mi è appena giunta una comunicazione su Facebook, una mia compagna di scuola, Manuela, mia ex compagna di scuola, ormai non vado più a scuola purtroppo, ha pubblicato questa immagine, c'è un ragazzo che credo sia, come si chiama, Adam Sandler, che guarda una ragazza e gli dice: scommettiamo una birra che ti tocca le tette senza usare le mani? E lei dice: ok, ci sto. Le tocca la tetta e gli fa: hai perso, ti devo una birra. E lei mi ha scritto sul mio nome: chissà perché mi ricorda te. E quindi e cosa hai combinato? Quando era al liceo, anche ora ero un marpione e tuttora sono un marpione e ho fatto questa piccola cosa. Avevo visto fare a Libero di, come si chiama, di Thomas Muccari, e aveva fatto questo giochino con una ragazza, non mi ricordo chi fosse. Io subito a scuola l'ho provato con lei, che era la ragazza più bella della mia scuola, la ragazza più bella della mia classe. È bellissimo, e ho baciato tutte le mie compagne di classe. Sì, vabbè, va, boom, te lo possono dire loro. Ora facciamo ragazze, questo. Ragazze, volete dire se avete baciato Vincenzo? Aspetta, intanto i nostri ascoltatori, i nostri ascoltatori di Bazinga, alcuni hanno risposto, cioè soltanto Bartolo. Sentiamo, ragazzi, sentiamo, dovete sentiamo. Rispondere. Siete contenti di avere Roberto Anzalone di nuovo qui? Oh, su no, Bazinga? La domanda esatta è: vi è mancato Roberto? Vi è mancato? Anzalone? Vabbè, simile, no? Bartolamico ha scritto un cacchè e basta, solo questo. Grazie, cacchè. Bartolo. Bartolo ti guarda, vuole molto è felicissimo bene. Di averti qui, guarda. Ma, proprio felicissimo. Aspetta, ora vediamo se ci sono altri qui che risponderanno a questa domanda. Se qualcuno aveva, almeno penso che aveva sentito qualcuno la mia mancanza. Io non credo proprio. Allora Vito Giannini ti risponde e dice: 104 anni che potevano risparmiarsi, l'ippica faceva per loro, sempre se non si offendevano i cavalli. Grazie Vito. Era bellissimo. Ma comunque, ragazzi, una cosa giusta dell'Inter, che l'Inter è una bellissima squadra. Filippo Rabito ha risposto alla prima domanda sì, e alla seconda no. Non mi ricordo qual era la prima e qual era la seconda. Qual però è la prima e la seconda? Accetto Filippo, spiegaci questi sì e questo no. Spiegaceli. Perché abbiamo un milione di social network aperti davanti. Sì, ci confondiamo. Sì, sì, ci stiamo confondendo. Ci sono un sacco di gente. Cioè, tra l'altro, ci sono nuovi mi piace alla pagina di Bazinga. Ah, Bazinga. Sappiate che c'è una pagina su Facebook: www.facebook.com/Bazinga Radio Sisma. Vabbè, ci sta. Quello ci sta. Ho sbagliato, sempre. Devo prendere questa. Ah, ecco. Vabbè, ci sta. Ci sta sempre. Dai, non ci fa niente. Aia, è bellissimo ritornare in radio, anche perché davvero mi è mancato. Ma voi sapete, ragazzi, dello ascoltatore che oggi Robè, fa... stavo parlando. Scusa, qual ma i ragazzi non sanno che oggi sto comprando. Sì, lo sanno, l'abbiamo detto e già mi hanno fatto gli auguri. Stai tranquillo. L'abbiamo già detto. Io sono, diciamo, uno che ha le manie di protagonismo. Allora, quindi, Filippo, Filippo Rabito ha detto sì, ci sta, ma non ci mancava. Ah, ah grazie. Ecco. Allora, sta, ringrazia pure. Ci sta, ma non ci mancava, certo. Già qualcosa, già no, qualcosa. Roberto, la nostra mascotte è un inizio, è un inizio. La nostra mascotte che ci interrompe, ci ruba, diciamo, gli inizi dei discorsi. E allora, per attuppare un purtuso, come si suol dire, attuppare un po' i ragazzi, potete parlarmi, bestia. Potete chiedermi se magari volete qualche canzone. Siete tutti in silenzio, io li vedo gli ascoltatori, ma nessuno mi risponde. Che parla, ma ci nessuno mi risponde, non c'è, ragazzi, interazione. Qualche richiesta, cioè, sembra che siamo alla radio, che la radio parla e tu non puoi rispondere. Capito? Intanto mettiamo questo pezzo e poi ne riparliamo tutti assieme. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Tell me, crystalline, yeah. And you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? I've gotten closer to the sun, and I've done things in small doses. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Ay, ay, ay. Go slow. meravigliosi, meravigliosi. Mi chiedevano chi fossero. E sono The XX. La canzone è Crystallized. Molti magari l'hanno già sentita perché la colonna sonora di PES, PES 2011, vero Gabriele? Sì. Sì, ma non so se c'era in altri. E non era questa proprio esattamente, diciamo, era remixata. Sì, una cosa proprio male, dei brutta. XX, era fatta brutta, invece questa che è meravigliosa. Vito Giannini se ne deve andare, ci dice quindi... Lo so. Ciao scopriamo. Vito! Grazie Vito per averci ascoltato fino ad ora. Ragazzi, mentre voi ascoltavate la musica, noi abbiamo fatto un piccolo spumato, un Pinot di Pinot, ecco. Pinot di Pinot Brut. Pinot Brut, perché oggi si legge il nostro Brut. Amico Vicchio, si legge Brut. Vicchio, quindi ha fatto 24 anni, quindi abbiamo quindi tanti auguri, quindi alziamo il bicchiere. Tanti auguri, vincenzo, abbiamo assato diciamo. Facciamo ciucecchio che a cammello ecco, stiamo facendo. Grazie, il brindisi, ragazzi. Voi non potete vederlo perché non abbiamo ancora la diretta video, ma molto presto ci sarà. Comunque, speriamo, volevo salutare Cristina di Carmine che mi ha contattato. Ragazzi, contattatemi, se no non posso salutarvi. Un altro argomento meraviglioso di questa sera, che ho preparato, diciamo, in questo piccolo pezzo di carta, è un argomento che a Roberto, da buon campanilista, interesserà non poco. Ed è quello che... Tu di dove sei originario? Dove hai abitato per tutta la tua infanzia? Io a Menfi abitavo. A Menfi. Cosa è accaduto a Menfi ultimamente? Cos'è accaduto a Menfi ultimamente che, diciamo, un pochettino l'ha risollevata dagli allori nella quale si era adagiata? Allora, per tutta l'estate abbiamo visto lo yacht Dolce & Gabbana, poi Pierluigi Berlusconi, Andrea Chedici. Non so le ultime novità. Ah, sì, vero, la Miss Italia, vero? La Miss Italia, che poi si scrive la Miss Italia, vero? La Miss Italia. La Miss Italia non è di Mazara, come hanno scritto moltissimi giornali, è di Menfi. Hanno sbagliato. Ed è del paese di questo losco individuo che abbiamo a sinistra. Finalmente, purtroppo sì. Ma tu lo sai che invece a Santa Margherita ne abbiamo avuto pure una Miss Italia? No, è arrivata terza. Chi era? Però è arrivata. Io non lo sapevo. Leattolo, sì, vero. Ma ti parlo io più di 10 anni fa. Ah, 10 anni fa, quindi ai tuoi tempi, quando tu avevi... Ai miei tempi c'era una Margherita. Quando tu avevi 30 anni, 10 anni fa. Oggi mia moglie gli faceva le battutine sul mio. Io ho già fatto 24 anni. Roberto mi diceva: ma tu non sei vecchio, io sono vecchio, sto facendo 29 anni. Quindi allora Roberto è il più vecchio, penso, di tutto il radiosisma. Forse nel raggio di 50 chilometri. Grazie. È la persona più vecchia, raggio 50. Che cosa mi dice Silvio? Giovanni appena dice vecchio, vi sto ascoltando, vecchio, ma vecchio che vicchio, non vecchio, vecchio, non vecchio. E c'è Roberto qua che è più vecchio di me. Allora io, se sono vecchio, Roberto è Matusa, non so come. Pensa di quali. Ah, comunque io ho detto che il gruppo di precedente erano gli XX. Dice: sono precisi a The Band of School. Parino. Vorrei aprire una parentesi. Parini. Visto che si parla di Miss Italia. Sì, era questo. Volevo aprire una parentesi. Come vi è sembrata questa Miss? A me personalmente è piaciuta, diciamo, esteticamente. L'unico giudizio che si può fare in un concorso di bellezza è quello del giudizio estetico, no? C'è una ragazza ricciolina, a me le ricce fanno impazzire, bionda, a me le bionde piacciono, non troppo. Allora, non c'era partita con le altre. A parte il fatto che c'era una ragazza tra queste che a me attizzava. Gloria Radulescu, ragazzi, cercatela su Facebook, non lo so, cercatela su Google. Cercatevi poi su Google Gloria Radulescu. E io ho pensato subito dall'inizio, questa finale sarà Gloria Radulescu, Giusy Buscemi, invece è arrivata con Giusy, è arrivata una cessa micidiale. Volevo precisare ai nostri ascoltatori, secondo voi, ora che è stata eletta la Miss Italia, tra parentesi, questa è fidanzata, secondo voi cosa succederà? Cosa succederà? Niente. Secondo me il mondo andrà avanti tutto il tempo, senza problemi. No, il fidanzato, parlo della Miss. Il fidanzato della Miss probabilmente non si sparerà più le seghe. Non si sparerà. Guarda, no, sarà l'uomo più invidiato. Se sorrose fioriranno, guarda. No, particolarmente. Cioè, c'è una statistica che dice che da millenni, da quando è che esiste il concorso di Miss Italia? Millenni, da 20 anni, da 30 anni. Da Da 73 anni, da ventenni, nel senso più multipli di 20. 70 non è un multiplo di 20, ma si ci avvicina. Comunque, da quant'è che è stato istituito Miss Italia? Quando la Miss Italia zita, fidanzata, arriva a vincere il titolo agognato, lo zito, cioè lei lascia il ragazzo e si mette con Fabrizio Corona o con calciatore, o con un calciatore. Vabbè, no, solitamente è Fabrizio Corona. Però guardare lei che è con Fabrizio Corona veramente qualcosa di bruttissimo. Cioè non tu immagina questa ragazza che quest'estate io ho visto più volte al Cigas in giro. Anzi quest'estate un po' di meno. Le altre estate ai fiori si mette lei. Ai fiori infatti sì, ai fiori. Io l'ho vista. Insomma io questa già ragazza l'avevo vista. Si notava pure prima. Io l'avevo notata alla corte degli Sfizi. Alla corte degli Sfizi. Ah, colgo l'occasione se c'è qualcuno che vuole fare volontà come paparazzo. Ragazzi, sì. Perché Memphis sarà al centro dei VIPs. Sì, è bellissimo. Stoccato, per dire. Comunque, in ogni caso, è amica di un mio amico. E quindi me la farà quindi conoscere. Quindi è tua amica per la proprietà magari, transitiva. Sì, esatto. Per la proprietà transitiva degli amici e mia amica. E magari mi farò fare un autografo. Visto che tu sei mio fratello e tua amica, lei è mia sorella. Esattamente, esattamente. È bellissimo. Esattamente. Se volete, vi posso dare il numero di telefono. Filippo Rabito mi scrive il telefono. Sì, va bene. Sì, ti giuro. Io basta che chiamo mia sorella. Mettiti vicino che stai staccando il microfono. Guarda, mi dai il numero di Giussi e la brava. Roberto, non si sente più. Un cacchio. Stai seduto. Fermo, cazzo. Roberto si è alzato e se n'è andato non so dove. Praticamente ha parlato col microfono in lontananza. Comunque ci sono dei commenti. C'è Filippo Rabito che ci scrive We Love Gloria. E c'è Bartolomeo che ci dice sì, raga, quello che volete, ma essere Miss Italia. La mia voce è strana negli alti, mi dicono. Io non sono una persona bassa. Tra l'altro c'è Giovanni Romano che dice ciao picciò, augurone a Vincenzo. Il compleanno dei 18 anni è più bello a cui ho partecipato. Ah, te lo ricordi ancora? Quel diciottesimo, ragazzi, è stato qualcosa di devastante. Stamattina ho detto questo: 24 anni fa ero in un posto umido, 6 anni fa ero a un rave party, 4 anni fa a Napoli, quest'anno sono in radio. Chissà dove sarò l'anno prossimo. E il rave è quello che si ricorda. 18 anni, scrive, 18 anni, cosa hai fatto 18 anni? Tanto come cosa hai fatto? Ho fatto 18 anni, ho fatto un rave party praticamente, però senza musica hardcore, senza pasticche, per il resto. Quindi donne, solo esclusivamente donne. Solo di donne. Ha detto Giovanni Romano, mettete qualche pezzo underground. Ti metto un guarda, pezzo underground, aspetta, guarda. Aspetta, ne abbiamo più di uno. Questo qui. Che ti piaceva tanto? Abbiamo molte persone che ci chiedono un sacco di canzoni. Io mi sto pentendo di aver detto, ragazzi, chiedeteci delle canzoni, perché adesso ho una fila enorme. Sì, mando prima un pezzo. Comunque, aspetta, prima di mandare questo pezzo, dobbiamo salutare Giuseppe Marchese e fargli gli auguri di buona guarigione. Un applauso ciao, per Giuseppe. Ciao, un applauso Giuseppe. Per Giuseppe. Grande Giuseppe, tieni duro. Grande, grandissimo Giuseppe, ritornato qua a San Margherita. Lui ha avuto un piccolo problemino quest'estate. Magari non parliamone in radio. Sono cose per private, sì, è giusto, insomma. È giusto, va bene. Però portate che qua con noi. Guarda qua con noi. Giovanni, te lo faremo sentire il trolololololo dopo questa canzone che la dedichiamo a Cristina Di Carmine. Che non ce l'ho, tu mi devi dire qua, prepariamocela prima. Te la dico sì, subito, questa. Ah, ecco, ecco. I tried. satisfaction. Bentornati, bentornati in studio, bentornati tra di noi, bentornati tra gli amici di Bazinga. Hi-tech. Volevo salutare anche Picchio che mi fa gli auguri ed è tra l'altro uno dei nostri più grandi ascoltatori, ci ascolta da sempre, proprio da quando ancora il programma si chiamava su internet ci fa sempre pubblicità, soprattutto su Twitter. Ci fa sempre pubblicità, sì. Esatto. E un altro ci segue, Andrea Pezzoli, che benvenuto Andrea Pezzoli tra i miei followers. Sì, è già un mio follower, comunque c'è Bartolamico che ha detto che in risposta a Giovanni Romano dice: consiglio un pezzo underground, un rumore della metropolitana. Più underground di quello, dice Bartolo, questo te lo meriti. Bartolo, ecco, ci stava tutto. Stavo suggerendo di fare questo, ma l'hai pensato da solo. E c'è Giovanni Romano che vuole un nostro jingle famoso. Lo vuole anche Filippo. Lo vuole anche Filippo. Devo andare a ripescare. Ora lo vado a ripescare. Anche perché il jingle You Are a Pirate, diciamo, non lo useremo parecchio. Giovanni l'ha tolto il tuo jingle. Questo perché mi hai lasciato, Giovanni. Non ci hai ascoltato più. Il jingle se n'è andato. Si è preso male. C'è Roberto che per adesso è zitto in una. No, sto zitto. Sì. Perché l'abbiamo insultato. No, assolutamente. No, non l'ho insultato. Io ho detto che parla sopra gli altri, ma non ci fa niente. Poi parla. Dai, dici che cosa. Ci sono stato 15 minuti a trovarlo, però ci sono riuscito. Durante la sua parlata, giusto. Era sepolto sotto megabyte di file audio. L'ho ritrovato. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che potete chiamare il nostro numero fisso che è 0925 33261. Quindi potete chiamare in diretta. Bello. Quindi vi rispondiamo. Volete una dedica? Noi vi dedichiamo. Soldi non ce l'hai, quindi assolutamente sì. Però se ci chiamate ci fate contenti, insomma, vi parliamo, per non dire. Quindi sputaniamo. Parte adesso il televoto, dai. Parte il televoto, stop al televoto. Anche perché vi mettiamo in diretta. Stop al televoto. Quindi una cosa bellissima, Picchio ha scritto: auguri a Vicchio, dato che forse oggi compie gli anni. Sì, forse. Faccio gli anni. E un ragazzo ha scritto nel caso di auguri il retweet. Un altro ragazzo l'ha retweetato. Mi siete mancati anche per il vostro po set trombone. Poi si è dedicato a te ancora meglio. Lo sapete che un mese come oggi era Ferragosto. Ah, è un mese come oggi. Sì, era Ferragosto. Non c'era questa temperatura, non c'era la pioggia, non c'erano i tuona. E c'erano i ragazzi, quelli tamarri, che mettevano quelle musiche orribili. Vabbè, tu ti ricordi il nostro Ferragosto? Sì, mi ricordo le tipiche canzoni dell'estate, no? Tipo schifo. Quella là che fa na na na na na na na na. No, ma io quella che mi ha scioccato più di oddio, tutti. Oddio, questa no, questa. No, non la metto. Io l'ho sentita un milione di volte. Aspetta, ma si sente? Sì, si sente. Welcome to Saturday. No, Cristo santo. Senti come spacca. Estate 2012. Yeah, sì. E vai. Sole e mani. Yeah. Sole e mani. Yeah. Memphis. Basta, ti prego. Ma qual è stato il tormentone dell'estate 2012? Esatto. Questo qui, ce n'è tanti tormentoni. Ce ne sono state altre. Non so, ti ricordi, Vincenzo, se vai a ripescare quel post, abbiamo tantissimi tormentoni. L'estate 2012, magari questi lo facciamo semplicemente per farvi capire, cioè per farvi avere dei ricordi. Magari per alcuni saranno bei ricordi. Qualcuno si è fidanzato, qualcuno si è lasciato con la ragazza, qualcuno ha imparato l'arabo antico e ha cominciato a bestemmiare. Giovanni Romano dice: ma Roberto Anzalone non l'avevano arrestato per stalking? No, manca poco però, diciamo. Purtroppo è ancora qua. No, ancora sono in circolazione provvisoria. Provvisorio. Vabbè, ci fa piacere. Va benissimo. Vediamo se funziona. Dai, che cosa sono c'è? Sono il 27 agosto, quindi piano sto scendendo in timeline. Prima o poi arriverò al 16, 15, 25. 16. 25, mi sa che devi scendere ancora, così, ancora. Vediamo se succede. Penso che non era il 15 quella cosa che è successa. Non è successo. Roberto, parlami di te. Com'è passato l'estate? Ah, infatti. Bah, devo dire che l'estate è stata bellissima, almeno per me. Poi, non lo so, facevo le solite cose. Sabato sera andavo in discoteca. Tu vai in discoteca il sabato sera? Sì, andavo al Voglimi. Sta attento a non smuovere il microfono, che sennò si stacca e non si sente. Non si sente niente. Sono andato a Malibu, sono andato al Voglimi, poi a Tre Fontane, quindi a Pepe Bianco. Diciamo che è stata un'estate, diciamo, alquanto movimentata, perché ho dovunque. Ma hai concluso qualcosa, diciamo? in che senso? Nel senso, hai avuto una ragazza quest'estate? Una relazione nuova? No, se no, cambiare domanda a proposito. Hai avuto un ragazzo quest'estate? Quale ragazzo? Metto di cambiare domanda. Non intendevo dire quella domanda. Dicevo, cambiamo domanda. Ecco. Che cosa ne pensi dello sfruttamento dei bambini in Cina? Non ti so dire niente. Vado troppo fuori. Aspetta, diciamo. Stai toccando qui dietro, quindi non si sente più niente. Sassa, prova. Ora si sente. Non Roberto, questo filo. È Roberto che se lo questo mangia. Questo microfono è sensibile. È sensibile. Molto sensibile. Sì, sì, si dovrebbe mettere a piangere sapendo che tu stai parlando con lui, praticamente. Vabbè, lo sfruttamento minorile non è una delle mie... ho sempre, diciamo... sono stato sempre contrario a questa cosa. Ah, interessante. Grazie mille per il tuo parere. Un'altra... Ha detto Giovanni, Peppe Bianco, no? Pepe Bianco, ho detto io. No? Peppe Bianco. un'altra canzone che ci ha tartassato le pelotas era la seguente, che ora partirà, ed è questa qui, che è la preferita di Gabriele. Ma guarda, proprio tutta l'estate ho ballato questa cosa. Cioè, non sapendo... Che poi se ci pensi... Non sapendo né chi la canta, né chi quando... Facciamo l'esperimento di fare noi gli speaker radiofonici, gli speaker di discoteca, come erano quei tizi là. Poi diciamo, Sea! Yeah, Sea! In alto le mani! Sulle mani! Senti, guarda, che pezzo di merda! In studio stanno ballando tutti, ragazzi, qua nel nostro acquario. I nostri spettatori stanno ballando nell'acquario. Senti che schifo! Senti che brega! Questo qui è il pezzo forte, dico. Aiuto! Ragazzi, questa sappiate che questo non è bazinga, è soltanto una dimostrazione. Quindi non vi arrabbiate, non le metteremo più, soltanto questa volta per farvi sentire. Facendo la danza della pioggia qui fuori, ci sono ragazzi che ballano sotto la pioggia. Jingle, Vincenzo, jingle. Jingle, ci manca il jingle. Sì, un secondo, scusami. Eccolo. Ecco, perfetto. C'è proprio fa la danza della pioggia. C'è Giuseppe Bellissimo. Marchese che ci dice il pulcino pio, ma preferiamo non mettere. No, che pulcino pio, no. Preferiamo non mettere. Io mi metto una canzone, la dedico a Giovanni per farti pulire le orecchie. Ti dedico questo bellissimo pezzo dei Gorillaz. Che mi ha fatto... Arriverà anche quella tua, Filippo. Arriverà anche quella tua. Scusaci, ma devo pulire le orecchie con questo meraviglioso pezzo dei Gorillaz. Thank you. finalmente mi sono un po' pulito le orecchie da quella orribile cosa che è la musica house techno. Praticamente stavamo raccontando questo Ferragosto, c'erano dei ragazzi che sono messi aspetta, adesso possiamo mettere il Pulcino Pio. No, no, sto scherzando. Che Pulcino Pio? Sto scherzando, ragazzi. Dico, quando quest'estate ci siamo accampati praticamente nella a Portopalo, dei ragazzi accanto a noi hanno montato uno stereo, hanno messo in ripetizione continua Welcome to Saint-Tropez, Mon Cheri, Whistle di Florida, hanno messo queste tre canzoni, più una che diceva l'estate si balla con la musica a palla, l'estate si balla, balla, l'hanno messa in loop continuo per tutta la serata. Alle 6:30 hanno staccato la musica e noi ci siamo messi pure a dire dai, metti di nuovo quella, goliardicamente. E l'hanno rimessa. La cosa bella che Ferragosto, mi ricordo che a mezzanotte il bagno, l'acqua era caldissima. L'acqua era bellissima, l'acqua. Sì, no? Sì, l'acqua è arrivata a 30 gradi quest'estate. Proprio. Infatti, Ferragosto non mi sono mai fatto il bagno a Ferragosto. Erano anni che non facevo il bagno a Ferragosto. Poi la cosa brutta che del Ferragosto è che non c'erano i falò di spiaggia. Infatti, te l'hai rifatto 20 anni fa quando avevi 25 anni. Ecco, sì. Bravo, 20 anni fa quando avevo 25 anni. Oh, vede che ne ho 28, il mese prossimo sono 29. Sì, tutti così dicono, tutti così. Così. Silvia ci lascia, dice che c'è un telefilm bello. Vatti a guardare il telefilm. Dice Saroni, sicuramente. Non abbiamo bisogno di te. E poi dici, mi tratti sempre male. Quando parli di me dici solo scemenze. È probabile. Sì, stasera non c'è niente in TV, ragazzi. Quindi, ragazzi, sapevatelo. Un consiglio: ascoltate Radio Sisma, che almeno. Che spacca, diciamo. Che spacca, che vi fa divertire, che vi fa passare una bella serata. Anche perché in televisione fanno sempre le stesse cose, quindi almeno il nostro programma è un programma, diciamo, alquanto innovativo, ecco. Sì, va benissimo, Roberto, grazie per la pubblicità, insomma. quindi ora un ragazzo mi ha contattato su Twitter e dice: scusa se ti atturro la minchia, non capisco una beata di Twitter, dimmi solo se così riesci a leggere quello che ti scrivo. Sì, ci riesco. Si chiama tra l'altro Carburatore. Si chiama Carburatore, cioè, non so una persona perché che si chiama Carburatore su però Twitter, mi ha contattato, sì, ci riesco a leggere. Comunque Giovanni Romano dice che a 28 anni c'è l'aggravante sulla pedofilia. Lì ci vuole lì ci vuole il sì. No, non ci vuole perché ci sta. Ci vuole. Ecco. È un trolololololo, ci sta tutto, diciamo, no? Questo è per te, Giovanni. Giovanni che si trolla, diciamo, Roberto via wireless praticamente. È bellissimo. Mentre questo. Voi io mi sciacquo la bocca con un bel vino bianco che io, mentre tu ti sciacqui la bocca, speriamo che duri parecchio questo sciacquo. Avevamo fatto una domanda prima, diceva cosa farà Miss Italia con ragazzo, e un mio cugino Francesco Sanzone di Menfi, anche lui scrive: ci fa le corna. È stato proprio semplicissimo. Ma normale, gli ha visto che lo penso solo io. Speriamo che non ci sentirà la Miss. No, probabilmente starà facendo un'altra figura da qualche altra parte. Bello, buono che sia. Domenica, ricordo agli amici che domenica Giuse Buscemi dovete in piazza. Quindi se la volete sberdare nuda, probabilmente a Menfi. Accessibile a tutti. Quindi se volete andate lì in piazza. Avevo scritto un pezzo tempo fa, praticamente sul mio blog, dove dicevo che quando noi abbiamo guardato assieme a Gabriele, abbiamo visto Miss Italia al concorso per la prima volta nella mia vita. Vero Gabriele? Forse mai l'avevamo visto. L'avevamo visto, ma così, proprio di sfuggita. Sì. Per la prima volta ci siamo visti tutto, dall'inizio alla fine. Non abbiamo però televotato perché, diciamo, abbiamo pochi soldi nel telefonino. Non per spirito di minaccia, però io ti favo per la Radulescu, non perché... Però c'è la rossa che era buona. No, la più bella di queste Menfi, eh? La Radulescu era ancora più bella, compa. La Radulescu. Io guardo... La Radulescu. Io praticamente cosa accade? Ho scritto che mentre stavamo guardando proprio la finale, che c'erano le ultime due, tra l'altro la numero 13, se non sbaglio, era una cretina totale, perché gli hanno fatto la domanda Moccia, poi in un magante allucinante gli fa la domanda: ma tu, se dovessi rinunciare a Miss Italia, se dovessi barattare Miss Italia con qualcos'altro, cosa faresti? Con che cosa lo baratteresti? E lei ha detto: ma io non rinuncerei, perché sono una ragazza semplice, sono una ragazza, come ha detto, sono vera, l'avete visto, spontanea. Sono spontanea, l'avete visto anche nel video che c'era, il video del provino, in cui lei recitava una parte. parte, diceva, cioè sembrava che stesse leggendo una poesia. Io mi chiamo Romina, non mi ricordo come si chiamava di cognome, Romina, facciamo Romina Power, no? Io mi chiamo Romina Power, sono era di Bari, sono di Bari, sono una ragazza semplice, io sono fantastica, vi prego, ma che sei un permesso Italia, così parlava. Ma che è un registratore, no? Sì, sì, è un una cosa orribile ed è arrivata seconda allo stesso tempo, insomma. Invece a Giuseppe Buscemi io ho detto, poi quando ha vinto la numero 46 la Miss Italia 2012 e la numero 45 Giuseppe Buscemi, ci siamo guardati tutti i ragazzi, eravamo dietro la televisione a Palermo e ci siamo messi a esultare, cioè come se avessimo vinto i mondiali. No, è stato, sì, ma poi è successo così, è successo. No, è stato lo stesso esultanza che ho fatto quando ha segnato Balotelli, e dicevo sul mio blog, è stata ho anche sperato che Giusy Buscemi si togliesse la maglietta per far vedere i pettorali, però sì, poi quale pettorale, ho già neanche seno. Se c'è la prima seconda C, la seconda C è una nuova C, classe, no, la seconda Coppa C, ma non c'è Coppa A e Coppa B, vuoi fare capire che sei un intenditore. Lei? No, l'ho vista solamente la sera, qualche volta in qualche pub, non l'ho vista in costume. Guarda, per me ha solo gli occhi. Ha solo gli occhi, quindi è un paio d'occhi attaccato ai esatto, piedi, no? È così, una cosa bruttissima. Ma il resto, aspetta, il voto. Giovanni Romano, che ormai ci contatta in continuazione, ha detto che gli faccia le corna con Roberto, è quotato a 12,50 su Bwin. Guarda, anzi, sì, è diciamo sicuramente una quota rispettabile. Per così poco, no, non esiste proprio. Io l'avrei quota, dato 1 a 156 milioni, oppure 1 alla velocità della luce al quadrato. Invece, effettivamente, vediamo che forse tipo sono dei come si dice, i broker, come si chiama, bookmakers. Gli hanno dato 85.000 euro più una nuova Panda. Una nuova Panda, diciamo, bello, cazzo, interessante. Io anche della macchina, ancora la devo comprare. La macchina, devi muovere il microfono, sennò ti si sgancia. Dico, a lei gli hanno regalato, io devo ancora comprare la macchina. Sì, ma tu non hai gli occhi azzurri, le tette, soprattutto non no, sei le donna. Tette ce l'ho, le tette, solo che non sei Miss Italia. Solo che sono pelose. mi indica che forse un po' le tette ce l'ha, mi dicono. Eh? 1 a 100 milioni. 1 a 100 milioni. 1 a 100 milioni. Ho detto 1 alla velocità della luce al quadrato. Quindi è contato ma vedete che io le tette pure ce le ho, solo che sono pelosi. Oddio, ragazzi, non lo volevamo sapere. Che immagine orribile, cazzo. Ma vedete che sono a te in costume, eh? Ma lo immagino e non lo guarda, voglio non lo voglio sapere manco io. Guarda. Spero solo di immaginare. Ma come mai? Cioè, da Miss Italia, ma è Mister Italia. C'è Mister Italia, però è una cosa gay. Se te la guardi, diciamo, se sei interessato, è gay. Io sono Mister Italia. Non è gay. Sì. Scusa, Miss Italia dovrebbe essere lesbiche. No, perché noi siamo dei marpioni e guardiamo sempre le passere. Invece le donne sono più cortesi e non vogliono un concorso di Filippo bellezza. Rabito ha detto, sto vomitando perché tu parli delle tue tette pelose. Non è il caso. Non è il caso in radio, guarda. Che Vito... No, Filippo Rabito. Ah, Filippo, guarda che io sono sexy costume. Guardate, so, ragazzi, vi ricordo sempre www.facebook.com/roberto.anzalone1. Così guardate. Guardate voi, no? C'è Francesco Sanzone che intanto pubblica su Radio Sisma, ascoltata a Do Vacante de Me Cucino Vicenza. così ci fa pubblicità, diciamo. Giovanni Romano. Sì. Giovanni Romano sta scrivendo una cosa, adesso ve la leggerò. Riguarda la Panda. Riguarda. E intanto io vi leggo una mail che ho scritto subito dopo la vittoria di Miss Italia. Ho scritto questo alla signora Gloria Radulescu. Salve, sono un giovane speaker radiofonico. Abbiamo una web radio molto seguita localmente e anche nazionalmente, forse universalmente. Siamo nella zona di operiamo nella zona della Miss Italia 2012 Giuseppe Buscemi. Tra le tante del concorso, quella che ha colpito me la redazione del programma tutta è stata proprio la vostra Gloria. Se fosse possibile questo venerdì vorremmo poterla intervistare in diretta telefonica e mandare tutto via web radio per sentire un suo commento a freddo sul fatto che è stata scartata e per capire come veda lei la vincitrice, che ripeto è della nostra zona. Se siete disponibili vi ricontatteremo subito, insomma fateci sapere. Io ho mandato un'intervista tipo, mi hanno risposto se c'è Roberto Anzalone no. Quindi Gloria Radulescu non sarà intervistata su Radio Sisma a meno che non ci sia Roberto ci ha fatto perdere un sacco di ascoltatori. Mi arriva ora da Twitter. Ok, dopo le tette pelose io chiudo Radio Sisma. Guarda Roberto, sei uno schifo. Giovanni Romano ha detto Una panda, un panda le hanno dato. Il direttore artistico della Rai ha sbagliato a ordinare. Ha preso un panda dallo zoo di Tokyo. Infatti, per ora a Memphis è in corso un consiglio comunale per vedere dove metterlo. Sto panda. Lo metteranno a Memphis. C'è il posto dove lo mettono. Guarda, non c'è bisogno del panda perché c'è già Roberto Anzalone a Memphis. Sì, ora ti facciamo due occhi neri e ti mettiamo nello zoo di Berlino. Comunque, panda Roberto Anzalone. Comunque, è una bella ragazza. Assolutamente. Ma noi è proprio affascinante. È una bella ragazza. La cosa interessante è stato che come ha risposto alle domande mi è piaciuto, insomma, perché è stata un po' più spigliata. E questo qui mi ha particolarmente colpito. Anche il fatto che quella le ha fatto, come si chiama, Lambertucci, le fa domanda: ma tu che sei di una zona decentrata d'Italia, come fai a essere così spigliata con le telecamere? Cioè, ha detto: siccome vieni dal buco del culo d'Italia, com'è possibile che parli così bene davanti a un pubblico così enorme? Vabbè, non è che siamo, diciamo, che siamo robot. Non è che siamo qui, insomma, no? Non è che, se, visto che abitiamo a chilometri di distanza da Roma, a migliaia di chilometri da Monte Cattini. 1500 chilometri. 1500 chilometri, grazie per questa puntualizzazione inutile. Come al solito, Roberto dal meglio di sé. Ma, visto che abitiamo a mille... Ma lo sanno che meno c'è internet? Lo sanno internet? Parliamo di noi, Roberto. Roberto. Ecco, Santa Margherita. Lo sappiamo. No, lui dice, loro sanno onda. Che c'è internet, quindi sappiamo qualche cosina pure esatto. Noi. Magari no. Forse magari non lo no. sanno, forse non lo sanno. Bah, io spero di sì, perché fondamentalmente la cosa brutta è farmi riconoscermi, diciamo, in questa cosa. Che cosa? Abbiamo una canzone da mettere, da chiedere. Sì, cioè, sì, scusami. Ce l'hanno chiesta. Sì, sì, tempo fa. Scusate, la mando così magari ci ripuliamo le orecchie ancora una volta. E puliamo le tette di Roberto. Le tette di Roberto. Lo depiliamo. Eroe nel vento dei Litfiba per Filippo Rabito. Senza pietà, It's funny thing they say, go leave. Questa non c'è. Oddio, oddio, oddio. Guarda, senti come comincia male. Senti, senti, senti. Hai finito con questa canzone? Sì, sì, che è dubstep, finito. Tu non puoi capirlo. Dubstep è una cosa troppo nuova per te, non ci puoi arrivare mai. Parentesi, visto che c'è Daniele, quindi abbiamo nuovi ospiti qui. Abbiamo Danielozzo Abruzzo e Fabio Tumminello. Un applauso, un applauso. Danielozzo. Aspetta che non si sente. Prova. Ciao ragazzi. Ah, ecco, il saluto. Ciao, e anche Fabio saluta. Quindi, buonasera ragazzi, benvenuti. Volete dire qualcosa, almeno per, visto che riscaldiamo la serata, siamo riscaldati, quindi volete dire riscaldando, qualcosa? già si sta strusciando. Non è che sto... È arrivato ora. Di la poesia della filastrocca all'elemento. Vuoi dire qualcosa sulla Miss Italia? Che buona. Hai visto, grazie. Solo questo. Ecco. Un applauso con tanto di bazzino. Andrò a casa. Tu prendi il microfono malissimo e si stacca e noi sentiamo malissimo, roba. Quindi smettila di muoverti, stai seduto. Il microfono, se no la prossima volta non ti ci porto il chiudere la studingia. No! Ah, promesso. Ritorniamo in studio. I ragazzi sono venuti perché tra l'altro mi vogliono bene, credo, forse. È il mio compleanno e insomma... Infatti mi hanno portato la birra. Ecco, siamo ritornati. Guardate, io poggio il ginocchio sul case del computer e si stacca la radio. È una cosa incredibile, però insomma è andata bene. Comunque, sono arrivati i ragazzi, hanno portato due birre, quindi adesso ci rimettiamo di nuovo a bere qualche birretta. Vi mandiamo un altro pezzo, magari, prima. E no, poi... ecco. Vuoi parlare solo tu, Roberto? No, vabbè, no, vediamo intanto... cosa deve dire Roberto, dai, sentiamo. No, niente, volevo dire soltanto semplicemente, visto che siamo qui, ci hanno portato qui delle birre, l'occasione, volevo sbirciare, volevo bere un po' di birra, solo questo. Ah, sbircia nella bottiglia, guarda, c'è solo birra. Sbirciare, ecco, sbirciare per poi assaggiare. Ah, sì, prima sbirci, c'è scritto Heineken. No, non si dice, non si fa pubblicità. No, c'è pubblicità. C'è scritto Heineken. E quindi il robot dire che questa canzone la dedico a me, così ti stai zitto un pochettino. La dedico a me perché, diciamo, anche se oggi ho fatto il compleanno, io mi sento sempre come il titolo di questa canzone, la dico sempre. Torniamo tra poco. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight, we are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Tonight, we are young, so we'll the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. E siamo qui di nuovo su Radio Sisma, Bazinga. Era partita pure Gabriele, non glielo alzare tutto il come si chiama, il microfono a Roberto, lasciaglielo a meno della metà, così anche se urla, diciamo, entra meno nelle mie cuffie. Vabbè, tanto con la mano lo stacca da solo, perché non c'è nessun problema. Mi sta sparando i timbri. Abbiamo una domanda per Roberto. Giovanni Romano ci dice: Robè, una domanda. Ma è vero che prima di condurre Bazinga cantavi nei fan? Questa canzone qui, questa canzone e qui, questo gruppo. So che We Are Young l'hai scritta tu in un momento di liberazione per aver avuto rapporti con una minorenne. È vero o no? Questo? Giovanni Romano. Ciao Giovanni. Secondo me è vero. Perché gli hai detto, lei ti dice: dai, ma tu sei maggiorenne. E tu gli dici: no, we are young. We are young. Siamo giovani. Quindi tu hai fatto finta di essere minorenne per poterti fare una minorenne. 5 minuti poi. Ah, Flavia, un'altra ascoltatrice, dice: mi mettete troppo di buon umore, mi fa piacere. Flavia, comunque, buonasera, Flavia, benvenuta tra gli ascoltatori. Già, ma Flavia mi ha fatto un milione di auguri oggi, mi ha detto pure voleva un pezzo di torta che non ho fatto ancora oggi, domani probabilmente la farò, quindi se domani vuoi venire a Santa Margherita ti puoi prendere benissimo la torta. Qui abbiamo i nostri amici, abbiamo sorseggiato la birra, io volevo salutare la mia ragazza che è in Inghilterra, mi ha detto che purtroppo non mi ha potuto ascoltare, vabbè, la saluto lo stesso, perché questa puntata, sappiatelo, sarà sì in Inghilterra, dopo ne parliamo, dopo la puntata, quindi sappiate che questa puntata Bazinga, oggi è il 14 settembre 2012, sono le 22:14 e questa puntata andrà in onda anche in podcast. La potete trovare anche in replica. Sì, in replica sui podcast di radiosisma.it. Che stiamo praticamente migliorando in questo momento. Se voi andate su radiosisma.it, in basso centralmente ci sono quattro programmi, solitamente sono messi in random, casuali, con tutti i podcast, li potete ascoltare. Nei prossimi giorni vi sarà anche bellissimo la diretta delle varie dirette, cioè il podcast delle varie dirette al Dedalo Festival che abbiamo fatto nel periodo di inizio agosto. Bellissima, perché facevamo tutti noi che abbiamo un programma qui, c'era Nicola Gangi che faceva prima le porte della percezione, e c'è Arianna, c'è Crisi su Facebook che avrà un programma nella prossima stagione, e c'è anche Lugelo, quindi Luca Licausi che ha un Luca programma, Surimi Licausi. Luca Surimi Licausi su Twitter, anche Claudio. C'è anche Claudio, abbiamo fatto tipo un misto di programmi tutti Diamond, assieme Diamond, seguendo questo Diamond. Sì, abbiamo seguito questo concerto, questa serie di concerti, è stato meraviglioso. Io non vedo l'ora di riascoltarli, anzi oggi me li passo nella pennina, li masterizzo e li metto su EMU. Quindi ludica, ascoltatelo, fatelo per noi e per i nostri colleghi, amici radiofonici. L'unica che ci mancherà con Diamond è la mitica Ivana. E Lorena, scusate. Lorena, perché cosa è successo? No, perché era una bellissima coppia, Lorena, Claudio. Sì, e si sono lasciati. E si sono lasciati. Lorena si è stabilita a Roma. Ah, quel senso. Ah, appunto, tu specifica. Io ascoltavo tutti i martedì. No, martedì. Tutti i martedì io ascoltavi Amazing. Amazing, il piacere della musica. Amazing, il piacere della musica. No, per Claudio, ma purtroppo era per Lorena. Quindi tu ci provavi con Lorena praticamente. Una bella ragazza Lorena. Assolutamente, sono d'accordo con te. Tra l'altro Diamond fra qualche ora farà il compleanno anche lui. Quindi domani lo festeggiamo assieme. Già molti sono stati invitati a questo compleanno, altri no. Quindi andate tutti a fanculo, voi che non siete invitati alla festa di domani. No, sto scherzando, andateci lo stesso. Comunque mi hanno commentato, mi hanno diciamo postato una cosa un argomento che avevo scritto prima. Mi hanno scritto: c'è un ragazzo con gli occhiali e con una calcolatrice e dei fogli in mezzo a un sacco di ragazze. Dice: there is only a one type of brow for me, algebra. Ovvero c'è solo un tipo di reggiseno per me, reggiseno, però non funziona in italiano. In italiano non funziona, perché bra è algebra, quindi grazie, non sono così nerd. Io ce l'ho le ragazze, probabilmente tu non ce l'hai le ragazze, ed è una cosa vera, perché Salvatore Licausi che saluta. Perché tu ce l'hai la ragazza? Sì, te l'avevo raccontato che era di Campobello, non so se ti ricordi. Ah, vero, sì, mi ricordo, sì, questa ancora sei... No, ci siamo lasciati perché io ho detto, perché insomma me l'ero inventato, non era vero che avevo una ragazza. No, no, c'avevo una ragazza. Bevuta, si stava frequentando, diciamo così. Si stava frequentando. Sì, non, è, non era di Caobeddo. Caobeddo, Caobeddo. Esatto. Salutiamo i nostri ascoltatori di Campobello, tra cui c'è Giovanni Romano, che però non è a Campobello, ma ci ascolta Parma, lo stesso. Parma ci ascolta, va benissimo, Giovanni. È Parmese, se tu, è Parmese. Non provare a farlo perché non ci riesci. No, infatti, non funziona, guarda. Qua ci stava il però solo che io ho un'altra pagina aperta e lo faccio. Tardi. Ecco, va bene lo stesso. Diciamo, poteva rientrare lo stesso. Il pulcino pio non lo mettiamo, ragazzi, no, sappiamo. No, pulcino pio no, perché lo odio. Sia il pulcino pio che qualsiasi altra canzone di questo genere non la metterò mai, quindi smettete di chiederci. Anche Gigi D'Alessio, se ci date 5.000 euro magari. No, ma anche io per 5 euro lo faccio benissimo, senza problemi, quindi non aumentare così tanto la posta. Guarda, parliamo di novità. Di cosa c'è di novità sul mercato in questo momento? Salvatore Licausi, quello che prima mi ha messo la cosa di algebra, insomma, che io non ho le tette, lui sì, mi ha detto è inutile perderci tempo, ci hanno già pensato. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto l'estensione del tipo l'iPhone 5, intanto l'argomento è iPhone 5 e parla del fatto che l'unica differenza tra l'iPhone 4S e l'iPhone 5 è che lo schermo è più grande di un centimetro, di un, come si dice, di un inch, che si dice, un pollice, cacchio, non mi veniva pollice, sì. È più largo di un pollice, hanno fatto un'estensione, l'avevano fatto dalla differenza tra iPhone 4 e iPhone S, non so se ti ricordi, c'era, sì, che non c'era nulla, c'era l'upgrade, un, cosa? 4S, 4. L'iPhone 4S 16 GB. Ma oh, guarda, sei proprio informato. Ma cosa c'è? Costa 700 euro, quindi figurati. Gliel'ho messo. Già fatto. Non ho capito cosa c'è, però va bene. L'iPhone 4S 6 GB, 16 GB, va bene. Va bene. Stavo dicendo, qui invece c'è un ragazzo che ha pubblicato il fatto che c'era l'upgrade tra il 4 e il 4S, che era una piccola S che si aggiungeva dietro l'iPhone. E dal 4S al 5 è una patina che si attacca dietro, con scritto iPhone 5, e un, diciamo, uno schermo più grande che fa lo zoom allo schermo piccolo di prima, e ti puoi fare un iPhone 5 avendo un iPhone 4S, quindi benissimo, non già cambia nulla, infatti tutti dici, quindi che quindi questo di pollice è una questione, sì, di un pollice, di pollice. Poi vabbè, parlando tecnicamente, la, diciamo, il processore, la potenza è raddoppiata rispetto a iPhone 4S. E poi c'è un nuovo attacco. C'è l'attacco sotto, non è il mini USB, ma è Apple Lighting, se non sbaglio si chiama, che è un altro standard, diciamo, che ora tutte le porte si dovranno solo adeguare. Queste le innovazioni. Chiamalo innovazioni. Le potrete avere al prezzo scontato di 700 euro. No, quindi 699. L'iPhone 4S dovrebbe costare adesso un po' di meno. È baccattatillo, Robè, proprio te lo dico, sì, col guarda, cuore, io... Grazie agli ascoltatori che ci fanno l'applauso, grazie. Quindi Roberto, stavi dicendo? No, io preferisco un telefonino da 30-50 euro massimo. Andarci a spendere 600 euro per un telefonino mi sembra un po'. Tu non ci senti, studio, cosa metto io? Se tu continui a parlare io metto questo. Lo senti? Sì, lo sento. E ci sono i grilli mentre parli tu. Siamo anche invasi dagli alieni, avete sentito quello? No, questo l'abbiamo sentito solo noi, perché sono i microfoni che fischiano, insomma. Wow. Va bene, wow. Quindi questo iPhone 5, ci sono tantissimi tweet, io mi sono pure dilettato a comporne qualcuno, che si chiama, l'hashtag iPhone 5 è così potente che... È così potente e basta. E tutti hanno scritto tantissime cose. C'è il più retweetato, che è stato retweetato 1753 volte, che l'ha scritto Andrea Gallarotti. Ha scritto: iPhone 5 è così potente che se accendi iTorcia ricominciano le Olimpiadi. Io avevo detto che iPhone 5 è così potente che per ricaricarlo serve una miniera di uranio. Quindi questo... cioè, iPhone 5 è così potente che quando cerchi di farti una foto allo specchio, lui se ne accorge e ti dice di smetterla di fare il bimbo minchia. Qua ce n'è tanto, ragazzi, devo leggere. C'era un altro che ha detto: l'iPhone 5 è così potente che se ti fai una fotografia ti ruba l'anima e poi te la devi ricomprare su iTunes a 99,99 euro. A mercato nero. Grazie. C'era quella: mi dicono che l'iPhone 5 è così potente che in modalità aereo vola. Ai. E è proprio vero, l'iPhone 5, diciamo, è potentissimo. Speriamo che la gente si renda conto. E poi c'è un altro che si chiama Dante Alighieri, si chiama su Twitter Dante Sommo Poeta, c'è scritto: sì. Non so le applicazioni puoi scaricare, mi dicono che ha tal la sua potenza che addirittura puoi telefonare. Un applauso a Dante Alighieri. La rima baciata qua. rima baciata, la rima baciata. La cosa brutta è che la gente che compra iPhone, gli Apple fanboy, chiamati così dalle persone che hanno un minimo di cervello e si accorgono che l'hardware non vale il prezzo per il quale è messo in vendita, diciamo, l'unica cosa che fanno è quando hanno un nuovo gadget iPhone, un nuovo gadget Apple, il vecchio lo rivendono a prezzo stracciatissimo, comprano subito quello nuovo, magari anche andando in America, facendosi spedire all'America, non lo so, dalla Thailandia, dal Giappone lo fanno, e sono dei deficienti completi. Lo fanno soprattutto perché vogliono rimanere alla moda e non perdere nulla, non rimanere indietro. Invece iPhone 5 è così potente che è stato presentato da Chuck Norris. Addirittura. Ma ce n'è un sacco, ragazzi, qua è impossibile leggerli tutti. Tu selezionane qualcun altro e mentre noi mandiamo questa bellissima canzone, che è la più lunga di quelle che abbiamo, ed è una canzone, diciamo, quasi inedita di Michael Jackson, non abbiamo mai passato noi in radio, e tu te la ricordi, è meravigliosa, Gabriele. Si chiama Unbreakable di Michael Jackson, è una dell'ultimo fantastica album. Ragazzi, quindi ballate tutti insieme facendo sulle mani e dovete dire pau. PC women bringing in 10G minimums to condos with elevators in them, vehicles with televisions in them. Watch they entourage turn yours to just mirages, disappearing acts, strictly nine to max, killings be serial, copper field material. My dreams is vivid, work hard to live it. Any place I visit, I got land there. I can play a stand there and say I sound like them. Hello, push wigs back and push six coupes that's yellow. Rust clips the expansion and the elbow. Spray up your days in any teller you in. Crack dragon, take a bragging, how my mink be dragging. Desert these street sweepers inside the beam of wagon. I rely on bed stop, shut it down if I die. Put that on my diamond bezel, you're messing with the devil. Di Michael Jackson, che non lo mettevamo da parecchio, forse mai, insomma. Questo pezzo merita, secondo me, perché è uno dei pochi, diciamo, non è inedito, nel senso è stato, penso sia dell'ultimo album, cioè poi c'è quel pezzo pure rap, yo, when again let's go, when again again I go, insomma, bellissimo, va benissimo questo pezzo a quest'ora della notte. Flavia ci risponde, dice, ma ciao, dici dell'invito fasullo, ti smaschero davanti a tutti, nel senso che l'ho invitata alla serata di domani, solo che lei è della provincia di Messina praticamente, quindi non potrà venire. Un'altra ragazza invece oggi mi diceva che è una ragazza che ho conosciuto quando sono stato in Croazia, sempre con i picciotti, tra l'altro c'era pure Daniele, il ragazzo che c'era poco fa qua, siamo stati in Croazia, ho conosciuto queste ragazze austriache e mi ha detto, io ho detto vieni alla festa, lei mi ha detto domani alle 5 sono a Palermo, vieni a prendere all'aeroporto. Penso che scherzasse, speriamo che scherzasse, perché domani non ci andrò all'aeroporto a prenderlo. Quindi, Carburatore, il ragazzo su Twitter poco fa mi contattava, mi dice, quando c'è Roberto che parla delle sue tette alzate, il volume, alzate il volume, quando c'è una canzone bella abbassate, com'è sta storia? Perché le mie tette hanno un certo fascino. Esatto. Che noi, schifo. Diciamo, la gente si accontenta più delle tette. Mi fai schifo. Vabbè, le donne, magari le donne, ora vediamo il sondaggio, se c'è un sondaggio, a quante volte le donne piace l'uomo peloso. L'uomo peloso, vabbè, ora vediamo. Lanciamo questo sondaggio. Da quante donne piace l'uomo peloso? Vediamo se qualcuno ci risponde. Io penso che il 99,9% dovrebbe dire di sì, mi piace l'uomo, diciamo, con un certo fascio, tutta la peluria addosso, con il petto e spalle, tutto peloso. Tutto... Che schifo, diciamo. Proprio le spalle pelose, non lo so quanto possa piacere alle donne. Forse le donne, diciamo, che hanno abitato in mezzo ai lupi tutta la vita, forse, probabilmente. Ma il resto delle donne sembra difficile. Ma ora vediamo questo sondaggio. No, che poi tu neanche d'estate, insomma, è appena finita l'estate. Tu neanche d'estate ti sei depilato, Robè. No, assolutamente, non mi depilo perché mantengo il mio fascio. Il tuo fascio peloso. È come se avessi sempre una maglietta di un dolce vita di flanella sotto. Un cashmere di pelo, orribile. Tutto 365 giorni all'anno. Ho capito tutto? Ah? 365 giorni all'anno. Ah, pensavo 360 gradi di cashmere. che cosa vuol dire? Era la temperatura corporea, dovevi farti vedere da qualche medico, perché non credo. Uomo peloso sempre piaciuto. No, era donna barbuta, sempre piaciuta. Vabbè, io ho cambiato la... Uomo barbuto, sempre piaciuto. Ah, quindi io sono piaciuto, diciamo. Una scimmia, insomma, dice una scimmia, Giovanni Romano. Uomo scimmia, una scimmia. Roberto si è un po' da scimmia. Poi Giovanni, tu lo conosci, quando sei venuto qui con il Money for Weed, hai conosciuto Roberto, sì, sì, ragazzi, purtroppo. Capobello, sì. I ragazzi di Capobello, sì. Hanno fatto i ragazzi di Capobello. Non ce l'hanno fatta. Dice, no. si sa, le donne piacciono i peluche. Le donne piacciono i peluche. Chi è stata questa? Giovanni Romano. Giovanni, non è se tuo parere, voglio le donne, devo dire il loro parere. Non è una cosa. E sono solo le donne posso esprimere questa. Ah, e ci è arrivata ora una comunicazione che le donne vogliono parlare degli uomini pelosi. Ecco qui il clip. Quindi le donne grillo piacciono gli uomini pelosi. Ora vediamo cosa. Cioè, Domenico dice: ma che stai a dire? Non lo so, questo a dire, però. Diciamo, e poi perché parli in romano, Domè? Hai preso la sindrome di Lugelo, compa? No, non si fa. Certo, essendo sempre qui. Ecco. Giustamente, essendo sempre qui, Domenico. Capita di avere. Ci bacchetta, diciamo. Ma poi dico io: perché le donne non deve piacere l'uomo che ha una certa peluria? Ah, dice, mi riferisco a Roberto. chi è questo? Domenico. Ah, Domenico. Poi Bartolamico dice: ho appena vomitato il cibo della Pasqua scorsa. Dopo questa affermazione, che schifo, dai. Stiamo facendo proprio una brutta fine, diciamo. Diciamo di sì. Quindi Gabriele aveva messo questa canzone. Chi la dedichiamo, Gabriele? Purtroppo non si è caricata, però. No, ma chi la dedichiamo? A tutti gli uomini pelosi. La dedichiamo ad Oriana. La dedichiamo ad Oriana e non agli uomini pelosi. Ad Oriana e agli uomini che si depilano, Oriana. Che soffrono. Solo sa se questa città ha alberi, ma che importa, tu mi fai, mi brucerò. Oh, Bellissimo, beh, è un pezzo bello. A me i Verdena, diciamo, non li ho ascoltati mai più di tanto. E mi fa piacere, diciamo, ritrovarmeli così nella trasmissione. Questi erano i Verdena. I Verdena per Oriana è Natale. Non nel senso che per Oriana oggi è Natale, ma nel senso Oriana è congiunzione Natale, che è un altro ragazzo. Un altro ragazzo. Se non sbaglio, sì. Natale è il ragazzo che apre col suo gruppo i concerti dei Negrita. O Oriana, correggimi facci se sbaglio. Sapere, Oriana. Comunque c'è Giovanni Romano che dice... spero che non sia su di me. Ma se sogno gay mi esprimo sugli uomini. Lasciami il tuo numero, Robè. Vuole il tuo numero. Ecco. Ora no, no, non te lo do neanche morto. Diamolo 333 41 62 139. Questo è Roberto Anzalone. Non è vero. Salvatelo con il nome di Maschione. Non so chi sia, anche perché tipo ora domaggiore mi denunciano perché ho dato un numero. Non so di chi sia, l'ho appena inventato. Colgo l'occasione per dire a Bartolo che accontenteremo anche te. Accontenteremo te e contemporaneamente anche Vito, perché è una canzone che a Vito sicuramente piacerà. Vito, mio grandissimo amico. Purtroppo lo ci siamo visti poche volte, forse solo una volta live, quando sono stato a Modena l'anno scorso al Linux Day. Spero che ci possiamo rivedere di nuovo. Lui è stato qui, lui è originario di Altofonte, Gabriele, abita a Modena, praticamente nostra madre, che salutiamo perché ci sta ascoltando. Ciao mamma. Vero? Ciao mamma, ti voglio bene, cara la pascia, come si che, dice se non fosse per lei questo programma non si sarebbe mai, creato, probabilmente neanche la radio, perché il sito l'ho fatto io. Effettivamente. Quindi la vera Caterina, mia madre, è la vera persona che ha fatto il radiosisma per la proprietà transitiva. Grazie mamma, tu sei la migliore al mondo. 24 anni fa stavi soffrendo praticamente, ragazzi. Abbiamo l'onore di aver dedicato questa canzone dei Verdena a, appunto, Oriana e Natale, che è amico di Pau dei Negrita. Alla vero, ed entra gratis a tutti i loro concerti. Bastardo. Ma tu Oriana, tu lo sapevi che io ho un amico che è amica di Giuseppe Buscemi, che è Miss Italia. Senti, io ho l'amico, io sono un grande, sono il numero di Giuseppe Buscemi, quindi se volete c'è una legge teorica che a quanto pare poi con Facebook si è poi dimostrata vera, che è quella dei 5 gradi di libertà, 6 gradi di libertà, non mi ricordo come si chiama e qual è il numero esatto, ti metti n gradi di libertà con n minore di 10. Praticamente cosa succede? Dice che tu, persona comune, sei collegato a qualsiasi altra persona nel mondo da 6 persone, ovvero io e Angelina Jolie, in mezzo tra di noi ci sono 6 persone, ovvero io conosco uno che conosce uno che conosce uno che conosce uno che conosce Angelina Jolie, capito? No. Caspita. Ed è una cosa vera, si è dimostrato su Facebook che io per esempio conosco uno in America, che conosce un altro, che conosce un altro, che conosce un altro, che conosce Angelina Jolie, ed è vero, nel senso si è dimostrata proprio vera questa cosa che si era ipotizzata, non ricordo chi l'aveva ipotizzata e quanti anni fa, insomma, però questa storia dei gradi di libertà con Facebook, che è un post... Quindi io probabilmente conosco una persona che conosce una persona che conosce una persona che conosce una persona che conosce Quentin Tarantino. Probabilmente sì. Caspita. Probabilmente sì. In questo momento noi conosciamo una persona che conosce una persona che conosce Pau De Negrita. Che conosco? Io conosco Giuseppe Buscemi. No, Pau De Negrita penso sia molto meglio, diciamo, quello che ha fatto e quello che farà. La solita bella gnocca Giuseppe. Vabbè, ma è bella gnocca. Ma tu te la ricordi Miss Italia del 98? Del 2002? Del 2003? No. Del 2003 no. Era Francesca Chillen. Del 2004? Hai visto? E Giuseppe Buscemi probabilmente tra qualche anno finirà il dimenticato. Io spero di no, spero che magari faccia una carriera d'attrice come vuole fare. Però, diciamo, grosso modo la bellezza sfiorisce. Ma Pau De Negrita ha un gruppo meraviglioso che ci ha regalato pezzi allucinanti e rimarrà per sempre negli annali. La vedremo su Maticole e Meteore. Chi? Giuseppe Buscemi probabilmente tra mille anni sarà diventerà vecchia. Famosa, sì. Quando quest'estate si troverà le fotografie su chi con Fabrizio Corona che si baciano, poi che si schiniano. Che si schiniano, esattamente. Bravo, grazie. Per la precisazione. Gabriele, tu hai trovato qualcosina su quel sito che spulci? Ma ce n'è tantissime. C'è tantissime. Per esempio i 10 europei con il pene più lungo, effettivamente. 10 europei, mettilo, che bello. Balotelli è il primo. Allora, ragazzi, no, i 10 europei nel senso gli stati europei in cui le persone hanno il pene lungo. Questo intendiamo la media. Al decimo posto troviamo la Germania. Decimi a quasi un centimetro di distanza dai primi, i tedeschi sono i principali sconfitti nella top 10, essendo lontani 8 mm anche dalla nona posizione. La sola consolazione in una statistica portata avanti da un istituto tedesco è essere messi dietro l'Inghilterra, malissimo anche per circonferenza. Dimensione media 14,61 cm. Al nono posto abbiamo la Lettonia, con dimensione media di 14,69 cm. Poi all'ottavo posto abbiamo il Belgio con la dimensione di 14,77 cm. Al settimo posto la Danimarca con 14,88 centimetri. Al sesto posto con 14,89 centimetri abbiamo l'Austria. Al quinto posto abbiamo l'Italia, paragonati agli asiatici che malappena raggiungono i 10 centimetri. 10 centimetri? Sì, quanto? Vedi, i cinesi o i coreani, gli italiani possono inorgoglirsi per il loro risultato. Quinti, ma appena a 4 mm dal quarto posto. Un popolo che ha sventolato le proprie doti amatori e ha costruito una reputazione da stallone al proprio esemplare maschio. Dimensione media 14,95 centimetri. Noi. Sì. Io sforo, quindi al quarto posto l'Ungheria con una dimensione di 14,99. Ah, non per niente si chiama l'Ungheria. Sì. L'Ungheria, che scemo. Al terzo posto abbiamo l'Estonia con 15,17 centimetri. Al secondo posto abbiamo invece la Svezia, quindi Ibrahimovic spacca, 15,36 centimetri. E al primo posto la nella Francia. Top 10 dei peni più Hanno lunghi la Francia con 15,48 centimetri. Dimensione media, ragazzi. La cosa bella è che Roberto ha rovinato tutto. Ma tu hai rovinato tutto. Gabriele voleva fare suspense. Al primo posto, incredibile, ma vero. Tu... Ah, la Francia. Ma che cacchio parli? Hai rovinato tutto, Roberto. Io invece pensavo, ma i sudafricani ce l'hanno più lungo degli europei. I sudafricani, io so che non ho mai controllato. In Africa si dice che la media sia su intorno ai 18 centimetri. Non so. Insomma, quindi io personalmente ritengo di essere africano. No, qua ce n'è un sacco. Ci sono i 10 i siti internet più visitati d'Italia. Non mi interessa. Immagino che sicuramente ci sia qualcuno. Vedi qual è il primo. Al decimo posto eBay. Al nono Blogspot. All'ottavo Virgilio. Al settimo Wikipedia. Settimo. Al sesto Libero. Al quinto Windows Live. Al quarto Yahoo. Al terzo YouTube. Al secondo Google. Ho paura. E primo Facebook. Ah. Facebook. Aspetta. E poi dopo il primo praticamente c'è una classifica più alta che è www.radiosismo.it. Queste sono le persone che sono felici perché visitano questo sito. Che ascoltano sì, Radiosismo.it probabilmente, va benissimo. Se si parla degli europei, Sudafrica che sono in Africa. Se si parla degli europei, Sudafrica che sono in Africa. Non ho capito. Allora c'è Domenico, il nostro tecnico, che dall'altra parte ci scrive cose su un foglio all'acquario e spiaccica questo foglio nel vetro dell'acquario e ci vuole fare capire qualcosa. È meglio con il codice Morse, perché si parla di europei che c'entra Sudafrica che sono in Africa. Ha ragionissimo, un applauso a Domenico. Grande Domenico. Oh, parliamo di europei, non parliamo di Africa. Noi parliamo di peni. Roberto, hai sbagliato tutto. Noi non parliamo più di peni. Adesso dedichiamo questa canzone a mia madre, innanzitutto, a Bartolo che ce l'ha chiesta. E soprattutto, anche al mio amico Vito Davì, da Altofonte / Modena, a cui voglio bene. Ecco, ho visto che la maglietta di Under Attack la sta sfruttando più di quanto la sfrutto io. Nothing. Bentornati in studio, bentornati ancora una volta con Bazinga. Bentornati con Bazinga. Bartolo D'Amico dice Bartolo D'Amico dice che scusami compa se ho sbagliato. Prima ha detto Juicy Key quando parlavamo di Juicy Buscemi, non l'ho letto. Poi dice se al primo c'è sicuramente UGZ, al secondo YouPorn. Ecco la vera classifica. Anch'io avevo paura di scoprire quale fosse il primo sito visitato dagli italiani, ma alla fine diciamo mi ha dato ragione a questo sondaggio il buon senso, perché non penso che 56 milioni di persone, 60, quanti siamo? 56 milioni, avevo detto correttamente. Roberto sa tutte le cifre a memoria di qualsiasi cosa. Roberto, quanta è la velocità della luce? 300.000 km al secondo. No, è 29954, non lo sai. Il pi greco fino alla millesima cifra. All'infinito. Poi 3,14, 15, 93, 62, 12, 14, 64, 2, 8, 96, 24. Tu sei pignolo. Non lo so, ma compa, io sono ingegnere, io devo entrare ingegnere, quindi devo essere pignolo. Ora, mentre Gabriele spulcia per trovare un'altra 10 cose migliori del mondo, io spulcio uno dei nostri podcast, perché sì, su radiosisma.it adesso ci sono i podcast. Quando andate sul sito radiosisma.it, in basso, sotto la iconcina chat, che non ho guardato stasera perché siamo dei deficienti, probabilmente in questa ci hanno parlato, qualcuno ci ha chiesto qualcosa, io guardo subito. C'è Roberto che è arrabbiato. No, c'è Onorio che... C'è Onorio, adesso potete litigare. Dove mette la casa i banchi? C'è uno, guarda. No, c'è uno che si chiama Menfi che dice Anzalone è uno di noi, quindi se sei con tutto male, malissimo. Vabbè, e poi c'è qualcuno che ci ascolta anche Super Pisellone 89 Giant che conosco, dice buonasera, auguri. Vice, poi non, ovviamente non abbiamo parlato, quindi la chat è rimasta abbastanza scusateci davvero. Allora stavo dicendo che cercavo nei podcast di Radio Sisma il pezzo di Amazing che anche Onorio conosce, che è venuto Onorio, è arrivato. Vediamo. Aspettava che passi il microfono, ma non ci riesce perché noi siamo tenaci. Tenaci. Dei lavori in corso. Presidente. Capostazione. Ascolta. Aspetta. Eccolo qua. Qua c'è il promo di Amazing. Ascolta. Diamond. Aspetta qua. Eccolo, sta arrivando. Questo è Diamond. Il nostro amico Claudio, a cui faccio gli auguri in anticipo. Stacca i microfoni così lo sentiamo pure in studio. Tu hem? Tu hem pa? Amazing. Forse man tu hem. Amazing. Il piacere della musica. Condotto da Diamond. Special guest Lorena Valenti. Musica, cinema, moda, high-tech, eccitanti news e rilassanti suoni. In diretta web su radiosisma.it. Ogni martedì dalle 21:30. Amazing. Ragazzi, ci sbellichiamo ogni volta con questo. Amazing. Che salutiamo. Abbiamo fatto tutta un'estate a prenderlo per il culo per questo promo meraviglioso. Amazing. Il piacere della musica. Difatti, io quando ho messo questo appuntamento nuovo, ho detto, ho scritto Bazinga, il piacere della musica. Musica con la Z, ovviamente. Comunque, ragazzi, mancano gli ultimi 5 minuti. Matta, aiuto 5 minuti alla conclusione del vostro programma. Bravo, Roberto. Del vostro programma. E quindi, prima di salutare, le ultime 10 cose che magari uno, magari non lo so. Cosa vogliamo fare? Accendino, dov'è? Se sono fregato. Ah, se sono ripresi. Mi puoi portare un accendino, gentilmente? Le ultime 10 cose. Ah, possiamo scegliere, ragazzi. Possiamo dire, non lo so, i 10 scalti accorgimenti a cui ricorre una cazza per controllare il fidanzato su Facebook. No, non mi piace. No, allora, possiamo dire i 10 peggiori individui che ti si potrebbero sedere al fianco. Vai, al cinema. Questo sì. Ecco. I 10 peggiori individui che ti si potrebbero sedere di fianco al cinema. 10. Il vero appassionato. È andato al cinema a ripetizione negli ultimi tempi, esaltato all'idea di vedere il suo film preferito milioni di volte. Ti ritrovi un vicino di poltrona di quelli insopportabili che catapultano nell'estasi pura dell'invasato. Inizi a ripetere le battute del film, pronto a anticipare quelle che ancora devono arrivare, citandole o preannunciandole con formule del tipo: ah, adesso arriva quella parte bellissima. Oppure il pezzo che sta per arrivare è emozionante. Cioè, non lo dico nulla, ma però il film che l'ha destato è Titanic. Poi al nono posto abbiamo il il critico, che è un detestabile intellettuale che con atteggiamento da sapiente osserva il film. La versione deluxe del critico si cimenta anche in una recensione in corso dell'opera, critica, fa la critica formale, critica contenutista alla fine. Poi abbiamo all'ottavo posto il reattivo, che di solito è una ragazza, ha il vizio di saltare ogni colpo di scena, che sia un film horror o una pellicola romantica, e il fastidio aumenta ogni qualvolta il pathos diventa insostenibile, o il nostro o la nostra si mette le mani davanti agli occhi affermando non posso vedere, scusate, sei al cinema e non vedi. Al settimo posto abbiamo il moralista, che commenta ogni scena o passaggio minimamente provocatori dal sesso alla religione. Se la scena può dare adito a e vita, un commento il moralista sarà il primo a parlare, il primo a sdegnarsi a nome di tutto senza che nessuno gliel'abbia chiesto. Al sesto posto abbiamo il puzzolente, si presenta come un normale fino a quando le luci in sala non scendono, però poi fa una puzza tremenda. Al quinto posto abbiamo l'addormentato, che è solitamente un anziano, io conosco qualcuno che si addormenta al Massimo. Cinema. Sì, si reca al cinema alla ricerca di comfort, attratto dal clima accogliente della poltroncina morbida, e se lo avete a fianco tutti i rumori del sonno faranno la colonna sonora del vostro film. Al quarto posto abbiamo il porco, che la prima parte del film la trascorre a mangiare, sgranocchia rumorosamente le patatine, le caramelle, le noccioline. Nella foto è Michael Jackson. È bene, sì, e il risucchio della Coca-Cola fa... con la cannuccia, uno dei grandi classici fra i rumori da cinema. La seconda parte la passa a digerire quanto ingerito, accompagnando il processo con rigurgiti e rutti, tipo alla peggio, poi si alza per andare in bagno in continuazione. Al terzo posto abbiamo l'agitato, sostanzialmente non si gode il film, rende insopportabile gli altri la visione, la battaglia a rimanere immobile è persa quasi immediatamente, infatti lui si muove sempre, appena i trailer che anticipano il film finiscono, la pellicola per la quale hai sborsato 7 euro o 9 euro se in 3D inizia, il tormento dell'agitato prende corpo e andrà avanti fino alla fine. Variante dell'agitato è il vicino con la tosse, entrambi possono essere letali. Al secondo posto abbiamo il malato dei messaggi, che da che team Vodafone e Wind hanno inventato tariffe SMS infinite, quelle per intenderci da 100 messaggi al giorno, e il messaggiatore ormai è diventato un'esperienza tremenda, cerca di seguire la trama però è troppo concentrato sul suo cellulare, è riconoscibile soprattutto dalla luce dello schermo del cellulare che rimane costantemente accesa. E al primo posto abbiamo il commentatore, commenta senza che questo commento sia richiesto, trascorre l'intero film a spiegare lo svolgimento, interpretare i passaggi, anticipare gli sviluppi, sviscerare la trama, parla sovrapponendosi al film stesso, rendendo odiosa la visione e insopportabile la sua vicinanza. Questo sono io. Il suo problema principale, sai qual è? Non se ne accorge, ritenendo di essere spettacolo nello spettacolo. Quindi sono io. Io sono... Tengo a precisare una cosa, che qui davanti, qui nel tuo studio di radiosismo c'è un critico. Abbiamo un critico. Non è che lui è un critico, sei tu che sei uno stupido. No, probabilmente è così. È diversa la situazione. Critico, io a Onorio dicevo pomeriggio che piuttosto che cancellarti, piuttosto che cancellarti, dicevamo anche all'inizio del programma, piuttosto che cancellarti definitivamente da Facebook, io ho fatto una cosa semplicissima, ovvero andare sui post che scrive e scrivere nascondi Roberto Anzalone alla tua. Io l'ho già fatto. E qualsiasi cosa scrive Roberto Anzalone io non la vedo, quindi sono contento, felice e continuo a vivere Facebook con la massima contentezza, diciamo. Quindi Roberto, vuoi chiedere qualcosa a Onorio che è qua con noi? Volevi chiedere scusa? Ma volevo dedicare una canzone che... Ma siccome siamo in chiusura c'è solo una canzone che può chiudere Bazzini. Dai, metti quello stesso. Cosa devi dire a Onorio? Che una sera con chiama e dice ora appena viene Onorio gli devo dire una cosa, appena viene Onorio gli devo dire una cosa. Qua Onorio, prego. No, io intanto buonasera a tutti. A parte alla fine del programma, io voglio fare un tête à tête proprio con il nostro amico Roberto, due microfoni con le due cuffie. Sì. E invito Domenico, tutti presenti, a vigilare. Siamo qua, siamo qua. Non vorrei incombere in qualche rissa. Odorio contro Roberto. Però, allora, diciamo anche diciamo in maniera ufficiale che dopo Bazinga andrà in onda questo tête à tête. Speriamo che non sia tête à tête. Esatto, perché lui ha le tette pelose, sapevatelo. Che Roberto ha le tette pelose. Speriamo che non sia un tetta a tetta, sia un tetta a tetta. Vediamo cosa accade. Vediamo cosa ne esce fuori. Quindi, dopo Bazinga, rimanete con noi perché ci sarà il tetta a tetta di Onorio Di Giovanna e Roberto Anzalone. Panza a panza, ci suggerisce Domenico. Esatto. E Domenico, ti meriti anche un applauso e lo mettiamo subito. Bravo, Domenico. Comunque, salutando i nostri ascoltatori, salutiamo tutti i nostri ascoltatori. E ricordate che il nostro appuntamento è sempre il venerdì alle 21 su radiosisma.it. Salutiamo Giovanni, salutiamo Vita, salutiamo Flavia, salutiamo Bartolo, grandissimo Bartolo, Giovanni. Salutiamo Carburatore, salutiamo Picchio, salutiamo Andrea Pezzo. Avevo detto Andrea Capezzo, invece Andrea Pezzoli, probabilmente. Capezzoli. Capezzoli. Salutiamo Oriana. Salutiamo anche l'amico dei Negrita, Natale. La mia ragazza, la mamma, salutiamo la mamma che ci ascolta sempre. Ciao mamma, cala la pace, stiamo arrivando a casa. Rimanete con noi perché ci sarà il tête à tête, ricordatevelo. Tête à tête. Ovviamente non rimanete se è un podcast, perché probabilmente se ascoltano dopo non ci sarà, perché il podcast si chiude. Quindi vi lasciamo sempre con la solita canzone che quest'anno non abbiamo cambiato, perché vogliamo tanto bene a Jimi Hendrix e a Calogero, che è quello che ce l'ha ispirata nell'anno scorso. Child, Jimmy, buonanotte Hendrix. Da Bazinga, il buonanotte, piacere della musica. Musica. Buonanotte. Notte ragazzi. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Oh. Radio Sisma, la scossa culturale. Don't walk.